Da giovedì 24 a domenica 27 settembre torna in scena al Teatro Arena del Sole la compagnia Arte e Salute con la direzione di Nanni Garella in Personaggi in cerca d'autore. Nanni Garella è qui con noi, innanzitutto saluto. Buongiorno Garella. Buongiorno, buongiorno. Proseguiamo con questa presentazione che ritroviamo all'Arena del Sole, non uomini, non attori, non fantasmi, ma personaggi. Come sarà questa divisione tra le definizioni che abbiamo dato? Guardi, io ho realizzato 6 personaggi molte volte nella mia vita, è sempre una bellissima palestra per giovani attori, perché appunto si accostano allo studio del personaggio attraverso l'opera che forse più di tutte le altre contiene in sé questa bellissimo paradosso del rapporto tra attore e personaggio. Quindi in questo ho sempre avuto buoni risultati anche da giovani attori che qui sono accompagnati dai miei di Arte e Salute, insomma ci sono anche dei nuovi allievi, per cui è sempre uno studio molto interessante. Aggiungiamo anche che vi è una ricerca al di fuori del palcoscenico stesso, in che modo? No, al di fuori direi che tutto dentro Pirandello, nella sua invenzione rivoluzionaria del 1921, ormai sono passati quasi 100 anni dalla prima rappresentazione di 6 personaggi. Questa è un'edizione un po', diciamo, ridotta, nel senso cambiata e adattata allo spazio in cui si realizza, ed è una visione abbastanza curiosa del teatro, perché appunto rappresenta, non sono degli attori che rappresentano dei personaggi che vivono nella realtà esterna da qualche parte come in tutte le commedie che si rispettino, ma sono veramente personaggi e in questo risolvono tutta la loro esistenza, ovvero la mancanza di esistenza finché non vivono su un palcoscenico. E quindi in questo sta tutto il paradosso, che poi è anche il paradosso dell'attore, perché è un personaggio senza attore non vive, quindi rimane sulla pagina. Un attore senza personaggio non vive. Com'è il rapporto tra gli attori, appunto, e questa particolare narrazione? È abbastanza complessa, perché in realtà rappresentano un piccolo drammetto di piccolo borghese che a Pirandello non piaceva, tant'è vero che poi non l'ha scritto, gli è rimasto nel cassetto. Però evidentemente questa materia continuava a stimolarlo, in qualche modo ossessionarlo, e quindi ne veniva invaso. Allora a questo punto ho deciso di rappresentare questa improvvisa comparsa dei personaggi in un teatro di attori che stanno provando delle scene, e questi personaggi cominciano a invadere il palcoscenico e a prenderlo piano piano, a conquistarlo. Ecco, in questo, adesso è una storia che si deve ascoltare tutta, perché chiaramente non si può raccontare in 3 minuti, ma è la forza dei personaggi sta nella loro postura tragica rispetto alla scena. La loro tragedia è quella di cercare per forza di essere rappresentati e di vivere in scena, altrimenti non esistono. Attraverso quali temi vi è questa ricerca e questo confronto? Ma il tema, gliel'ho detto, è una piccola storia di una famiglia, di una famigliola che si sdoppia con un intreccio abbastanza complesso, che però alla fine poi non è il motivo poetico. La trama è semplicemente il rapporto tra una compagnia di attori che sono in prova e 6 personaggi che sono forse anche un po' degli alieni, sono quasi angeli, non sono neanche uomini. Non sono uomini o donne, c'è un padre, una madre, non hanno un nome di battesimo, sono semplicemente dei ruoli, e quindi in quanto tali sono molto misteriosi e anche abbastanza inquietanti a volte.